progressive session on Galaxy. sur Galaxy. week-end avec Guillaume sur Galaxy. Progressive Session Mix on Galaxy. laude, la gloria e l'onore, e torni e benedizione. A te sole l'altissimo se confano, e tu non l'uomo e l'indignito non trovare. Laudato sia il Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sur lo frate sole, lo quale giorno, e t'allumini noi per lui, e tu lo è bello, e radiante con grande splendore. De te è Cristo mi porta significazione. Laudato sia il Signore, verso la luna e le stelle, il cielo le formate clare, clare, e preziose più belle, belle, belle. Laudato sia il Signore per frate vento, e tu aereo e tu nubile sereno, tu ne tempo, per lo quale alle tue creature dà sostanza a me. Laudato sia il Signore verso l'acqua, la quale non sto muto, e tu mi hai preziosi. Laudato sia il Signore per frate fuoco, Progressive Session Mix on Galaxy.